Auguri, auguri. Grazie. Come stai? Bene. Va bene, bambina? Sì, prima. Già, quanto mesi che sono? Grazie. Ciao, stai bene. Grazie. Metti da trovarlo 7 o 7 euro e dopo facciamo 2 euro da una buona. Grazie.